Io che non ho mai creduto nell'amore e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Quello che mi dà al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore per te. Io credo che di sopra l'uragano un'ombra bianca ci sarà. E il sole faccia splendere ogni giorno per la mia felicità. Al vento che bacia le spiagge, al chiaro Hey.